Allora adesso è il turno della professoressa Valera di Cosenza, che viene da Cosenza. Qui facciamo un salto mortale, però forse non tanto, adesso vediamo. Il diritto sociale ipotetico in Theodor, mi pare che sia, Schumann. Sì. Ti prego anche di essere lenta nell'eloquio. Sì, eh? Certo. Va bene così, perché il professor Reinhardt capisce? Ciao. Ciao. Dunque, innanzitutto devo fare una piccolissima premessa, cioè voglio dire che il mio lavoro è stato in parte condizionato e in parte così guidato dal fatto che io in questo grosso gruppo di lavoro facevo parte di un gruppetto che aveva il compito di leggere l'Allgemeines Landrecht e quindi di lavorare un poco sull'Allgemeines Landrecht. Ora, nell'Allgemeines Landrecht, tutti sanno, c'è una giusta posizione di principi giusnaturalistici e di elementi che vengono dal diritto positivo, così organizzati secondo uno schema che grosso modo è lo schema romanistico. Quindi a me pareva interessante andare, parso interessante, andare a rileggere alcuni sistemi filosofici per riuscire, alla luce di questa lettura che avevo fatto del codice, per riuscire a capire fino a che punto lo schema organizzativo dell'Allgemeines Landrecht si ritrovasse o quali dislivelli ci fossero tra questi schemi filosofici e appunto la struttura del codice. Ora, nell'ambito della letteratura, a parte gli scrittori che naturalmente si riflettono direttamente, i filosofi il cui lavoro si riflette direttamente nell'Allgemeines Landrecht, la letteratura più vicina dal punto di vista cronologico e anche dal punto di vista fisico, geograficamente, era la letteratura dell'ambiente kantiano. E all'interno dell'ambiente kantiano, fatta una cernita di tutte le voci possibili che potevano essere raccolte, esclusi i grandi nomi di Hugo e Rademacher, che mi sembra portino a una problematica alquanto più avanzata, rimaneva nella miriade di nomi, secondo me rimanevano nella miriade di nomi il nome di Tafinger e il nome di Schmalz. Ora, Tafinger mi sembra mediare abbastanza bene tra una tradizione giuridica che è quella di Pütter e la tradizione, il problema del sistema secondo il formalismo kantiano. Invece la persona che più rigorosamente applicava il formalismo kantiano al problema della costruzione del sistema giuridico mi sembra essere appunto Theodor Schmalz. Ora, Theodor Schmalz, qualche dato cronologico e biografico, nasce nell'Hannover, nel 1785 è privat docent a Göttingen, nel 1788 viene chiamato a Königsberg e fa praticamente tutta la sua carriera politica nella Prussia. E è un personaggio anche abbastanza interessante. Nel 1815 ha scritto, è un conservatore, nel 1815 ha scritto un libello contro le società segrete, è stato due volte in prigione durante il periodo della guerra contro i francesi. La sua opera, che si svolge per un arco di anni che va praticamente dal 1790 all'incirca fino alla sua morte, comprende sia scritti relativi al diritto di natura e quindi al problema della filosofia del diritto in generale, sia d'altra parte scritti di cameralistica e su problemi della Staatswirtschaft. Lui prende posizione in senso nettamente fisiocratico. Ora, appunto, tra gli autori kantiani, Schmalz è forse quello che più rigorosamente applica il metodo formalistico per l'elaborazione di un sistema del diritto naturale costituito in modo rigidamente deduttivo a partire da un principio. A me interessa particolarmente per l'accento che egli pone sul diritto naturale ipotetico, primo, e per alcuni aspetti della sua filosofia giuridica in cui l'autore entra in polemica con Kant, che è il secondo aspetto che io tratterò. Ora, qual è lo schema della filosofia del diritto naturale in Schmalz? Il diritto naturale per Smalls comprende tutto quanto di realtà giuridica può essere dedotto dalla ragione. Lui dice precisamente: «Wenn man die verschiedenen Darstellungen des Naturrechts in einen Begriff vereinigen will, so scheint es die Wissenschaft der äußeren vollkommenen Rechte und Pflichten und ihrer Modifikationen in den einzelnen Verhältnissen, sofern sie aus der Vernunft und den Begriffen dieser Verhältnisse erkannt werden.» In pratica, poi, tutto quanto il diritto naturale, così definito, e io sottolineo l'accentuazione molto importante che lui fa del problema dei Verhältnisse, della natura stessa dei Verhältnisse, dei rapporti, in pratica tutto quanto il diritto naturale si divide in reines Naturrecht, che è praticamente la scienza, Wissenschaft von den Urrechten und Urpflichten, il quale a sua volta si divide in absolutes Naturrecht, che è la deduzione appunto dei diritti e dei doveri originari dal loro più alto principio, e in hypothetisches Naturrecht, che praticamente a partire dagli Urverhältnisse, che sono costituiti dagli Urrechten ed Urpflichten, che costituiscono gli Urrechten e gli Urpflichten, praticamente svolge le diverse possibilità che possono venirne fuori. Ora, l'hypothetisches Naturrecht, il diritto naturale ipotetico, comprende a sua volta l'allgemeine Gesellschaftsrecht, cioè il diritto generale, tradurrei in italiano, delle società, non della società, che fa parte del reines Naturrecht perché non tratta di singole società specifiche date dall'esperienza. E che viene da Smalls posto in maniera alquanto problematica come continuazione e come punto finale del diritto naturale ipotetico puro e come introduzione al diritto naturale applicato. Infatti lui dice: «So wenig eine Untersuchung einzelner Verträge in das reine Recht der Natur zu gehören scheint, so verdient doch noch die Gesellschaft überhaupt eine Stelle hier, ich weiß nicht, ob zum Schlusse des reinen Naturrechts, ob zur allgemeinen oder zur allgemeinen Einleitung in das Angewandte.» Il diritto poi naturale applicato praticamente comprende lo Staatsrecht come diritto delle società applicato ad una società particolare che è appunto quella statale. Anche in questo caso possiamo leggere un piccolo passo: «Das angewandte Naturrecht enthält die Lehre von den Modifikationen der Rechte, welche in den einzelnen wirklich gegebenen Verhältnisse stattfinden, ma anche um ihn zu erschöpfen, nahmen die Rechtsinstitute des bürgerlichen Rechts und entwickelten die Natur derselben. Andere, da man doch auch das Ganze nicht erschöpfen konnte, haben nur einige und die wichtigsten Verhältnisse des Menschen ausgehoben. Und dies verdienen denn vornehmlich nur die welche dadurch ein Ganzes ausmachen, cioè praticamente lo Stato, la famiglia e la Chiesa.» Ma in pratica poi nella sua opera l'accento più importante viene posto sullo Staatsrecht. Ora, l'idea di un diritto naturale ipotetico non è certamente nuova. La si trova già in Pufendorf, la si trova anche in Wolf, è ripresa, e questo a me interessa particolarmente, nel manuale di Achenwald Pütter, che sembra abbastanza usato dai filosofi kantiani, però io non ho avuto il tempo di fare una verifica precisa di quanti autori, quanti abbiano usato il manuale di Achenwald nelle loro lezioni. e che è comunque usato e criticato dallo stesso Kant. Tutta una parte del Nachlass kantiano è dedicato appunto alla critica della filosofia sociale presentata, del diritto delle società presentata da Achenwald. A me interessa qui sottolineare la funzione che il diritto naturale ipotetico svolge nella costruzione del sistema. Infatti un elemento mi sembra particolarmente interessante nella costruzione di Schmaltz, e questo elemento è il superamento dello schema res personae actiones, che condiziona in effetti molti sistemi del diritto naturale che tendono poi ad una fusione di diritto naturale e schema romanistico, e che in qualche modo avvertiamo per le materie trattate anche dietro la trattazione di Schmaltz, però profondamente modificato. Infatti l'azione è ormai posta come fonte del diritto, e naturalmente non solo da Schmaltz, al primo posto, e viene kantianamente intesa come espressione della libertà della persona, nel senso giuridico, a disporre di sé. Ciò posto, tutto il sistema ruota in realtà, mi sembra, intorno al concetto di persona. Gli erworbene rechte per il diritto naturale ipotetico hanno come condizione il fatto dei rapporti sociali. E proprio i rapporti sociali definiscono, secondo Schmaltz, lo status in senso giuridico. In contrapposizione con la definizione restrittiva dello status giuridico data da altri autori, per il quale, per esempio, Nettelblatt, per i quali status indica i diritti di una persona che deviano dalla regolarità normativa, Schmaltz afferma invece che in rechtlicher Bedeutung heißt nämlich Zustand nichts anders als ein Verhältnis, in welchem der Mensch als ein Subjekt gewisser Rechte betrachtet wird. Tutta la trattazione degli erworbene Rechte, che presuppone appunto quantomeno dei rapporti originari, appare così assai più congrua con la definizione normalmente data del diritto delle persone che con quella che viene data normalmente del diritto delle cose. D'altro canto, il diritto delle società, posto a conclusione del diritto naturale ipotetico, è in effetti presentato da Schmaltz come diritto di persone morali e segna la continuità fra diritto ipotetico naturale puro e diritto naturale applicato, nel quale si passa appunto dalla considerazione degli Urverhältnis alle considerazioni di rapporti empirici secondo i principi razionali esposti nel diritto naturale puro. Vorrei notare però due cose per illuminare questo aspetto del pensiero di Schmaltz nel contesto in cui nasce. La prima è che la discussione sul rapporto fra diritto delle cose e diritto delle persone e sulla modificazione dello schema romanistico è sempre presente in questo periodo nei trattati su enciclopedia, metodologia e sistema del diritto. Ricordo qui soltanto la polemica insorta intorno al sistema di Hofacker. La seconda è che una Gliederung alquanto simile a quella segnata dall'opera di Schmaltz si trova proprio nel Versuch dell'Allgemeines Landrecht, in cui appunto la parte relativa ai Sachenrechte, che viene trattata naturalmente in maniera articolata, viene posta dopo la trattazione dei diritti delle persone. E questa trattazione dei diritti delle persone comprende come sue sottoparti appunto il diritto degli stende, conguagliati come fatto generale alle società, delle società in genere, e il diritto dello Stato. Quindi il diritto dello Stato viene considerato come una parte del Personenrecht. Un secondo aspetto poi vorrei notare nel sistema di Schmaltz. Scompare di fatto ogni distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, perché l'Allgemeines Staatsrecht non è che un'applicazione del diritto generale delle società ad una società di tipo particolare, che è appunto lo Stato. Tutti i rapporti, anche quelli privati tra i cittadini, sono pur sempre rapporti entro lo Stato e perciò Schmalz afferma che un allgemeines bürgerliche Recht non può essere considerato come una branca peculiare del diritto naturale. Denn, dice Schmalz, die Bestimmungen der Rechte des Bürgers in Privatverhältnissen können nur durch die gesetzgebende Macht geschehen, was sich nun über die Notwendigkeit oder die Möglichkeit solcher Bestimmungen sagen lässt, ist nichts als Regeln für die gesetzgebende Macht, folglich in das Staatsrecht gehören, wo nicht zum Teil in die Politik. Dunque, e con questo aspetto quindi passiamo al secondo problema che mi premeva di mettere in risalto. Mi manca la scheda, eccola qua. Che mi premeva di mettere in risalto per quanto riguarda la trattazione, il sistema di filosofia giuridica costruito da Schmalz. E questo secondo aspetto, secondo me, è. Dunque, prima però di passare a questo secondo aspetto vorrei notare un'altra cosa, cioè in questo scomparire praticamente del rapporto tra diritto pubblico e diritto privato è da sottolineare, secondo me, la coerenza fra questa concezione e il problema posto da più parti, secondo più voci e secondo più prospettive, di una teoria generale della Gesetzgebung, una teoria generale della legislazione che deve servire come momento parallelo alla lettura delle singole Gesetzgebungen storiche, al problema cioè delle legislazioni storiche, come aiuto, come ausilio per la interpretazione e quindi per la costruzione di un rapporto tra sistema ed enciclopedia del diritto. Questo mi sembra anche abbastanza interessante perché mi sembra, a parte il fatto che si pone il problema della teoria generale della legislazione e quindi qui si innesta una tensione tra legislazione e momento costitutivo, una tensione che probabilmente si può vedere anche nell'Ottocento, io non l'ho vista ma forse altri colleghi potrebbero darmi delle indicazioni, tra diciamo per così dire costituzione rigida e costituzione aperta, costituzione legata al momento legislativo puro, e invece costituzione nel senso della fondazione di diritti rigidamente che devono essere osservati rigidamente. Quindi a parte questo aspetto c'è poi un altro aspetto, cioè il problema del passaggio dalla concezione dello spirito delle leggi ad una concezione dello spirito della legislazione, che è concetto alquanto diverso e che pone tutta una serie di problematiche, il rapporto tra storia e diritto, appunto che pone un salto qualitativo. Comunque col problema della trattazione dello Staatsrecht come diritto naturale applicato vengo ad un secondo aspetto interessante nel pensiero di Schmalz, e cioè al problema della definizione dello Stato e della tensione e della polemica che su questo problema si innesta in relazione a Kant, tra Schmalz e Kant. Dunque lui dice praticamente der Staat also ist eine Gesellschaft, Verein für Sicherheit, ihrer Mitglieder gegen alle Gefahren, welche ihren Rechten drohen, sei es von Bosheit der Menschen, sei es von Übeln der Natur. Quindi lo Stato è appunto una società che si costituisce per definire, per difendere i diritti dei suoi membri. E fino a questo punto la definizione è ancora, sia pure schematicamente, kantiana. Tuttavia l'autore entra in polemica con Kant sostenendo che un ulteriore elemento deve caratterizzare la definizione dello Stato. Questo è una società peculiare per la peculiarità dei suoi membri, cioè per la peculiarità dei soggetti che contraggono il patto, i quali sono proprietari terrieri. Il territorio, dunque, come Miteigentum dei consociati, non il potere determinato dal patto, definisce lo Stato come forma specifica di società. Anche nella concezione dello Stato come associazione di proprietari terrieri uniti per la difesa dei propri diritti, Schmalz ovviamente ha dei precedenti. Basti ricordare Möser e io vorrei ricordare soprattutto la definizione di Achenwald. Achenwald sosteneva che bürgerliche Gesellschaft e Stato sono due cose diverse. Proprio perché la bürgerliche Gesellschaft è fondata sul contratto, è una societas. Invece lo Stato, diceva lui alla lettera, ha a che fare con la proprietà degli abitanti e quindi continuava determinato da un territorio. Kant, in polemica con Achenwald, sostiene che allo Stato di natura non si contrappone uno Stato sociale, ma un bürgerlicher Zustand, che poi in Kant, anche qui un po' schematicamente, praticamente finisce con l'essere lo stato di diritto, rechtlicher Zustand. Schmalz gli risponde che tanto il bürgerlicher Zustand quanto il gesellschaftlicher Zustand si contrappongono allo stato di natura ed entra a sua volta in polemica con Schlözer nella distinzione da lui introdotta fra bürgerliche Gesellschaft e politische Gesellschaft. A questo punto bisogna mettere un po' d'ordine. L'interpretazione che di questo intricato contrapporsi di definizioni si può dare è, a mio avviso, abbastanza semplice. Achenwald riconosceva come reciproco dello stato di natura lo stato sociale e non lo stato tout court, proprio perché per lui il concetto di stato si poneva in un altro ordine di idee rispetto a quello che tradizionalmente fondava sul patto la società, in quanto societas, sia in quanto societas cum imperio, sia in quanto societas sine imperio. Da questo punto di vista, Kant mi sembra molto più ancorato nella concezione di uno Stato fondato appunto sul potere di imperium, Zwangsrecht, come momento costitutivo e regolativo dei rapporti, fatte ovviamente le opportune distinzioni e segnati gli opportuni salti qualitativi. Schmalz, vedendo nello Stato un'applicazione del diritto delle società, non può che ritenere come termini reciproci dello Stato naturale sia il gesellschaftlicher Zustand che il bürgerlicher Zustand. D'altra parte, poiché il dislivello strutturale tra Stato sociale e Stato civile, nel senso della politische Gesellschaft di Schlözer, non è dato per Schmalz dalla presenza del potere, dell'imperium, che per lui è presente a tutti i livelli delle formazioni sociali, ma è dato appunto dal territorio e dalla peculiarità dei contraenti il patto, è naturale quindi che egli rigetti anche la posizione di Schlözer e affermi che ogni tipo di Stato sociale ha una sua costituzione politica, per quanto di tipo più o meno elaborato. La polemica Kant-Schmalz sullo Stato si inserisce così su una tradizione che non a caso, mi sembra, dati gli interessi di Schmalz per la Staatswirtschaft e la cameralistica, rimanda ad Achenwald, quindi a tutto quello che intorno ad Achenwald si costituisce e alla statistica si costituisce. Il discorso però è qui più complesso e viene portato su un altro piano. Si tratta infatti di definire cosa significhi che lo Stato difende i diritti della proprietà e di definire in ultima analisi la proprietà stessa. Schmalz lo dice esplicitamente. Occorre decidere se la proprietà, come dicono alcuni filosofi, sia un istituto dello Stato e venga dopo lo Stato, o se sia invece originaria e venga prima di esso, sia la base di esso. Contro Kant, Schmalz si esprime decisamente per la seconda ipotesi. La proprietà infatti non nasce dal possesso, attraverso l'istituzione dello Stato di diritto può essere legalizzato, può essere sanzionato e, come dice Kant, riceve un carattere perentorio al posto del carattere provvisorio che aveva invece nello Stato di natura. La proprietà invece nasce dal possesso come salto qualitativo rispetto al possesso, come conseguenza della formazione, cioè del lavoro necessario per inserire nella materia la forma, come si esprime Schmalz in termini kantiani, e in ultima analisi per rendere produttivo quanto è stato acquisito. Naturalmente in questo concetto si innestano le concezioni fisiocratiche dell'autore, che io lascio da parte qui, e probabilmente se avessi ragionato dopo aver sentito la relazione di Corni avrei ragionato forse anche in maniera un po' diversa su queste cose. Comunque, dal nostro punto di vista, esso è significativo perché serve, almeno a mio parere, ad ancorare ancora una volta l'idea di Stato a quella di territorio. L'immagine che ne viene fuori è quella di una strana sintesi, dal punto di vista teorico perlomeno, è quella di una strana sintesi fra una concezione dello Stato di diritto, cioè la concezione di uno Stato che difende i diritti, e in particolare i diritti dei proprietari, ma il modello assume una sua generalità, e una concezione dello Stato territoriale di stampo assolutistico che tende a fondarsi nell'oggettività del territorio, a mio avviso tentando di fare piazza pulita dei diritti soggettivi costituiti dai diversi status come qualificati dalla deroga alla norma, indicando invece il punto di riferimento unitario della politica e del diritto appunto nella realtà della proprietà e del territorio. E ciò in un momento in cui l'accento dei giuristi cadeva molto più sulla dialettica fra subjectivus e objectivus, in particolare subjectivus reale e objectivus reale, che su quella fra cose e persone. A mio parere, proprio perché qui c'è il problema di rimettere in discussione tutto il vecchio stato di cose. Ora, il problema reale che a me sembra ci sia dietro tutto questo può essere individuato nella necessità di fondare in una prospettiva legalistica l'intervento, quindi una prospettiva formalistica e legalistica insieme, l'intervento dello Stato anche al di fuori e oltre l'ambito richiesto dalla difesa del diritto, non cadendo nel concetto generico di Wohlstand e Glückseligkeit che Schmalz respinge in accordo con Kant. Così per Schmalz, nella definizione dello Stato, secondo la sua natura, entrano due elementi, il suo fine, cioè la difesa del diritto, e i mezzi per raggiungere il fine. I mezzi sono costituiti dalle forze dei cittadini e dalla ricchezza. Sul piano del potere, a questi due aspetti corrispondono poi due poteri, il potere di legislazione, Gesetzgebungsgewalt, e il potere di amministrazione, Verwaltungsgewalt. Anche questo, tutta questa problematica si illumina, secondo me, ma queste naturalmente sono soltanto proposte, alla luce del contesto e all'interno del contesto da cui nasce l'Allgemeines Landrecht e delle polemiche che vi sono sorte intorno. A questo proposito vorrei leggere, perché mi sembra lo dimostri abbastanza bene, vorrei ricordare il dibattito che sorge tra Klein ed Erhard, e Daniel Erhard, in relazione appunto alla pubblicazione del Gesetzbuch, cioè della seconda redazione, la prima è il Versuch, la seconda è il Gesetzbuch, della seconda redazione dell'Allgemeines Landrecht, quella che poi si cristallizzerà con qualche variazione nell'Allgemeines Landrecht. Ora, la polemica tra Erhard e Klein consisteva proprio in questo: fino a che punto lo Stato può ingerirsi e quindi può stabilire delle leggi che riguardano il Wohlstand, che riguardano il benessere generale dei cittadini, e fino a che punto invece lo Stato deve necessariamente limitarsi alla difesa dei diritti. E la risposta che dava Klein era appunto la seguente, che la difesa dei diritti dei cittadini può essere fatta soltanto sulla base delle forze dello Stato, della potenza dello Stato, il termine usato è Macht, e che quindi questa si misura non soltanto sulla base delle forze dei cittadini, ma anche sulla base della ricchezza che può essere prodotta. E su questo elemento si innestava poi un'altra problematica che pure in Schmalz viene trattata, ma io poi non l'ho ampliata qui perché altrimenti la relazione sarebbe stata troppo lunga, che è la problematica della rappresentanza e della partecipazione nel momento in cui si deve costituire la legge, nel momento in cui quindi ci si deve innestare in una produzione che serve a cristallizzare, a fondare la struttura dello Stato. E infatti, e qui mi sembra molto interessante quello che Klein dice, rispondendo ad Erhard, perché lui afferma «Gewiss ist es, dass die Regierung in eben dem Maße in welchem sie das Volk an der Gesetzgebung anteilnehmen lässt, auch befugt sei, das durch Gesetze zu bestimmen, was sonst nur durch Verträge hätte festgesetzt werden können». Cioè, il fatto che mi sembra interessante qui è questo, e che io apro alla discussione, quindi il problema che presento alla discussione è questo. C'era tutta una tradizione teorica che fondava praticamente la necessità di leggi fondamentali che potevano essere fondate soltanto sulla base dei contratti, cioè la legge fondamentale non poteva essere considerata che legge in senso improprio, perché in realtà doveva essere un patto, un contratto tra i singoli soggetti capaci di contrarre appunto questo contratto, questo patto. E i soggetti storici sono naturalmente all'interno dell'impero tedesco i vari principi che possono in qualche modo imporsi sullo stesso piano dell'imperatore a livello della Gesetzgebung, della legislazione fondamentale. Ora, il problema era di vedere come questa problematica potesse essere trasferita all'interno dello Stato territoriale e quindi come si potesse riportare il problema della legislazione fondamentale all'interno dello Stato territoriale. E la soluzione che viene data è appunto il fatto che Klein riconosca in realtà queste leggi dovrebbero essere contratte mediante Verträge per il loro contenuto, però la soluzione che viene data è che in ultima analisi c'è una partecipazione del popolo, non altrimenti definito, alla legislazione, e che quindi questa partecipazione alla legislazione praticamente finisce col sostituire quella prerogativa delle leggi fondamentali che era sempre stata costituita dal fatto di essere fondata su Verträge. E questo aspetto mi sembra introdurre il problema appunto del rapporto tra rigidità costituzionale formalmente criticata proprio in ambiente kantiano da Feuerbach, per esempio, che affermava che è assurdo fare in modo che alcuni diritti cosiddetti diritti naturali vengano portati al livello di un patto costitutivo e quindi di un elemento immutabile, mentre poi tutti gli altri elementi, quelli che muovono la società, in qualche modo vengono affidati al potere sovrano. Quindi questo problema della rigidità della Costituzione fondata su diritti dell'uomo e invece della mobilità della Gesetzgebung che deve riempirsi di contenuti molto più concreti. E su questo credo che posso. Grazie. Ci sono interventi diretti? Sì, volevo una piccola precisazione. Cioè, vorrei pregare la signora di aiutarmi a ricordare la data di composizione del manuale di Schmalz. Dunque, le opere, il manuale che io ho ottenuto soprattutto come punto di riferimento, sì, da cui ho letto anche dei passi, è del 1807, però le opere appunto cominciano dal 92. La prima edizione del manuale precedente? Ha però altri titoli, sì, cioè c'è il... Sì, è del 92, allora, la prima edizione del 92. 95 quarto volume, sì, precisamente. Altri interventi? Volevo chiedere una cosa più di dettaglio, se vuoi. Tu hai certamente accennato all'uso del termine persona moralis, riferito a quali società? Tutte? Tutte le società sono considerate persone morali. Sia pure naturalmente con definizioni, precisazioni, eccetera, ci sarebbero stati molti testi da leggere. Però secondo me appunto è importante perché in fondo gli stende sono messi insieme nel Versuch, sono proprio messi, c'è questa continuità, diritto delle persone che corrisponde al diritto delle società, le Gemeine, eccetera, al diritto degli stende, al diritto dello Stato. Quindi questa continuità, inserite stende, tutte queste cose. Certo, certo. Questa è la definizione. E tutto questo inserito, sì, tutto questo è inserito all'interno. Ora? Allora passiamo alla dottoressa, grazie. Prego.